Noi dall'anno 2004, in particolare dalla stagione invernale 2004-2005, abbiamo adottato la tecnologia RFID per ammodernare il nostro sistema di vendita SkiPass e di controllo accessi. Di conseguenza la tecnologia è presente presso i punti di emissione, i punti cassa dove effettuiamo la vendita degli SkiPass e presso i punti di accesso. Presso i punti vendita lo SkiPass viene dunque caricato su quello che si chiama transponder, ossia una card che contiene al proprio interno un'antenna con un chip contactless collegato ad essa. Questo permette poi allo sciatore di andare direttamente agli impianti e di accedere agli stessi varcando i punti di controllo a distanza e, come diciamo noi, a mani libere, cioè sciando senza dover estrarre il proprio SkiPass e introdurlo in un validatore. La lettura avviene a distanza fino a circa 40 centimetri e lo SkiPass stesso può essere tenuto anche in tasca. E possiamo dire potrebbe anche essere annegato all'interno di un qualsiasi strumento, non solo una tessera classica. Assolutamente sì, anche in questo campo abbiamo fatto dei passi avanti. Da 2 anni abbiamo a disposizione anche delle carte di credito che sono emesse dal circuito CartaSì e che contengono al loro interno un layer contactless, ossia un chip che corrisponde allo standard ISO da noi adottato, che è l'ISO 15693, e consente dunque al cliente di farsi caricare lo SkiPass direttamente sulla carta di credito. Questa è una delle soluzioni. Stiamo monitorando con attenzione altre possibilità che la tecnologia mano a mano sta offrendo. Una di queste prevede anche l'incapsulamento del transponder all'interno del telefonino, è quella che è chiamata tecnologia NFC, cioè Near Field Communication. In questo caso il transponder, il chip che dovrà contenere le informazioni relative allo SkiPass, è collegato direttamente alla SIM del telefonino, ma questa è una tecnologia ancora in divenire, ma la stiamo monitorando con attenzione.